pace primule, l'estate avanza debole, splendido il tuo sorriso pallido, non lascia scampo e sadico, se non mi muovo sclero. L'alba è solo un sogno, cadono le foglie, siamo già in autunno. Non è mica vero che sono ubriaco, guarda all'orizzonte, segnali di fumo. Scende il tramonto, l'alba è solo un sogno, cadono le foglie, siamo già in autunno.